Infatti. Attenzione. In questo programma vengono usate parolacce e volgarità in generale. Se siete particolarmente sensibili a certi argomenti, vi consigliamo di non ascoltarlo. Vi ricordiamo che ogni riferimento a cose o persone reali è puramente casuale e del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Now, the 105 Zoo. Now, the 105 Zoo is on. Marco Mazzoli presenta. Lo Zoo di 105. Buongiorno amici. Buongiorno. Pronti? Senti. No. No. Avete paura? Sì. Lo so. So che siete dei cacasotto. Ma non è vero. Ma non preoccupatevi, perché anche i componenti dello zoo hanno le loro paure. Per esempio, sì. La chicca ha paura degli scarafaggi alla menta. Ma non squalo esistono. Non ha paura di nulla. È vero. Perché non ha cervello. Certo. È giusto. Pippo giusto. Palmieri ha paura delle scarpe numero 36. Wender ha paura di se stesso, sì. Ma più magro. Fabio Lisei ha paura di smettere di bere il vino. È vero. Paolo è vero. Nois ha paura di tutte quelle cose che iniziano con la lettera C, come cavalli, cetrioli, cimici, contanti, cocciante, culo, cazzi, crisi, basta. Cicciobello e Cianni Morandi. Cianni. E poi il più cacasotto di tutti, Marco Mazzoli, che ha una paura fottuta di Gianluca Vacchi, Fedez, Sfera e Basta, Bobo Vieri, Saluta Antonio e Domenico Dolce. Io invece ho solo paura dei treni, ma per fortuna oggi mi trovo in... Welcome to the zoo. Ah, può finire così una pressione. Poi sono puntuali solo con lui. Pazzesco. Perché no? Perché lui trasmette dal Giappone, sai che lui sono sempre puntuali. Ma perché hai paura di Domenico Dolce, Marco? Perché abbiamo avuto una storia. Molla, mi dai Gianni Morandi, Gianni Morandi. Scambio Gianni Morandi per Domenico Dolce. Vai Gianni! Lo Zoo di 105. Uh-huh. Tutto il resto frittura sonora. Buongiorno, si è tornati, buongiorno. Buon mercoledì, buongiorno, buongiorno. Per gli amici in replica che non hanno sentito tutta la premessa, la presigla, diciamo così. Sì. Vabbè, insomma, scusate, ieri non ci siamo stati perché io ho dei problemi in famiglia e non potevo venire in onda. Era meglio che non venissi in onda. Detto questo, mi fate ringraziare un po' di persone che mi sono state veramente molto vicine in questi giorni. A parte giorni. Il tuo cane, intendi? A parte il mio cane, ovviamente. Ci sono stati anche degli umani che sono stati veramente meravigliosi. A parte voi dello zoo che devo ringraziare Alessia, il mio amico Filo, Gaia, Daniele, Lucia, Angelo e Lucia. E ovviamente anche il mio caro amico Rovazzi. E Lucia. Il mio caro amico Rovazzi. Perché il tuo caro amico Rovazzi? Rovazzi è l'amico di tutti. Sai che è la persona più amico gentile di della tutti. Terra, cazzo. No, volevo, siccome ho scritto nell'elenco le persone che dovevo nominare, c'era Rovazzi. Ma Rovazzi perché abbiamo fatto, ma non abbiamo mai litigato, abbiamo fatto pace, mi ha mandato un messaggio, eccetera. Allora volevo ringraziarlo, l'ho messo nell'elenco. Comunque, ma anche Mentana si è fatto la foto con Rovazzi. Allora, Rovazzi, se tu gli mandi un messaggio audio alle 5 di mattina, bestemmiando, risponde. Lui ti risponde e dice: ciao, spero tu stia bene e niente, tante belle cose. Quando ci vediamo beviamo un caffè. Quello è l'influsso di Gianni Morandi. Cioè, è il bontismo di Morandi. L'altro giorno mi manda un messaggio audio così, no, scherzando, dice: cazzo, devo venire a Miami, facendo le robe insieme, ci divertiamo e robe. Io gli rispondo alle 3 del mattino in Italia, cioè io ero qua in America, stavo portando il cane a pisciare. Mi risponde subito, dico: ma che cazzo fa sveglio questo alle 3 del mattino? Ma freschissimo, è come se si fosse appena alzato. Sì, la droga. Ma poi sempre con quella voce dolce: grazie di tutto, tutto a posto. Lui è il nuovo San Pietro, il nuovo ballo, le chiavi della discoteca del paradiso. Sapete qual è la cosa? Ho analizzato tutto, no, in questi giorni. La cosa più bella del mondo, secondo me, veramente, è questo programma. La fica, cioè la fica sembra un occhio pestato. Ha ragione, gonfia. Poi ragazzi, analizziamo questa cosa prima di dire l'altra. Cioè, la fica è la rovina del mondo, diciamo. Se le donne venissero al mondo come la Barbie, cioè piatte, senza un cazzo, questo mondo sarebbe fantastico. Noi ci inculcheremo. Dovresti parlarne con una persona su un divano di questa roba, Marco. Ascolta. Tu analizza, se non ci fosse la fica è la rovina del mondo. Se le donne avessero solo, diciamo, la bocca, il corpo, tutto, senza la fica e il culo, saremmo. Allora, paese, se gli togli la fica, però voglio 14 mondo. Tette. No, va bene, che dai. Scambia, 14... che cazzo. Ma pensa che bello, noi uomini ci inculeremo tra di noi. Vedi dove voleva arrivare. Già ci inculiamo, va? Ma Marco, cioè non ci buttiamo sulle cose che. No, comunque, sulle ovvietà, dai. Beh, fermi, io niente, devo fare un discorso profondo a Paolo. Perché sì, dimmi, questi fratello. Giorni è stato un caro amico, mi ha scritto, abbiamo parlato, mi ha mandato dei messaggi. Dille meravigliosi. Cose, dille cose come stanno. Fammi io sono. Sì, io sì. Chiamami il risolutore. Madonna. Semplificatore. Mia. Cioè, quando, cuore d'acciaio. Quando il mondo si prodiga in frasi, diciamo, giuste di. No, di aspetta, premessa. A un certo punto provo a rispondere a lui. Zitto! Rispondi solo quando lo dico io. Adesso ascolta e leggi. Dico, Madonna. Così che bisogna fare con gli amici. Comunque, in scusa, Marco, scusa. Io tendo ad affiancarmi alla versione di Paolo. Secondo me non esiste un problema sulla faccia della terra che non si possa risolvere con una troia 19enne portoricana. Allora, Fabio, io vorrei che tu però affiancassi anche un grammo. Perché, sinceramente, la troia portoricana. Allora, non c'è nessun problema che non possa essere risolto. Basta con questa droga di merda. No, io ho detto grammo, poteva essere anche di erba, eh. L'erba non è certo. Droga, è natura. Comunque Paolo, ho capito, ho letto tra le righe, ho capito che tu vorresti avere una relazione con me, non posso, no, mi spiace. Ma nel rispetto di tua moglie, perché le voglio molto bene, certo, anzi, certo. Devo ringraziare anche tua moglie, Stefani, grazie Stefi. Purtroppo non posso, Paolo. Ti ringrazio. L'accetto, Marco, ci soffro. Oddio, però aspetta un attimo, ci sto ripensando un secondo. Ma adesso sono io che rifiuto. Rifiuto perché in questi 6 secondi ho avuto un'altra relazione. Ah, sì, invece mi sono fatto il grammo. Mi sono gravate di. La portoricana, ecco, ha detto culattoni che nella sua lingua significa ragazzi calmati. Mi è arrivato un altro messaggio, eccolo qua. Ok, ci stai adesso, dai Paolo, dai, su, vieni qua, vieni in camera. Purtroppo mi è partito un WhatsApp audio, non era mio e non posso fare nulla. Pensa, adesso in questo momento Rovazzi si è pippato il grammo, è molto strano questo momento. Niente. Gira, sta girando. Pronto Rovazzi? Era lui che diceva. Chiamiamo Rovazzi. No, ma lascialo in pace. Allora, facciamo un esperimento, aspetta, gli mando un messaggio audio, aspettiamo se risponde subito, aspetta. Vai. In quanto tempo risponde? Vediamo. Aspetta, che cosa gli dico nel messaggio? Ho saputo che vuoi venire a fare una roba con lunga, Marco. Lunga. Aspetta, no, gli chiedo che ore sono. Ciao. Come Aranzullo. Aspetta, questo WhatsApp del cane. Ciao Fabio, senti, scusa se ti disturbo a quest'ora. Sai che ore sono, per piacere? Ma che messaggio. Noi andiamo avanti con la puntata, vediamo se lui risponde. Che domanda. Sai che ti risponde dal Big Ben con una foto. E adesso che domanda è gentile. Allora, se risponde. Che domanda. Lasciamogli in qualche intervista. Lasciamogli il tempo di rispondere, voglio vedere cosa risponde. Adesso ruba l'orologio a Mentana per dirti l'ora del suo Rolex. È capace, pazzo completamente. Beh, è un genietto lui, è veramente un genietto. Vabbè, insomma, detto due questo, settimane fa l'abbiamo coperto di merda. Ma per il film, adesso va bene così. Scusa, allora, ragazzi, dobbiamo analizzare. Anch'io nella mia vita ho fatto tante cose. Il film On Air è stata una merdata. Cioè, no, non era brutto, era bello. No, era bello. Allora, mettiamoci d'accordo. Era bello, allora, ma non ha funzionato. Ah, aspetta, facciamo una riunione, scusate. Dai. Voi cosa avete pensato? Fosse una merda. Era un po' lungo, andava tagliato. Cinque persone si poteva fare meno. Ok, era una merda. Ma no, Marco, il popolo ha deciso, scusa. Il popolo è sovrano. Però, purtroppo, sapete che questo gruppo di lavoro, in un modo un po' strano, diciamo, può essere definito come un gruppo di supereroi. Noi siamo un po' gli Avengers torpi. Ecco, questa è la versione. Soprattutto dopo mezzanotte e mezzaluna. Voglio. Chi è che guida però gli Avengers? Chi è il capo? Iron Man. Iron Man, esatto. E io chi cazzo sono, scusate? Un coglione. No, ma no, scusa, nella finzione, sei il nostro Iron Man. Oh, se Iron Man è a casa e che c'ha i cazzi suoi, non si può fare la battaglia, giusto? Giusto. Quindi io ieri ho dovuto chiedere ai miei colleghi, aspetta un attimo, facciamo l'appello. Allora, Paolo, tu chi sei, scusa? Perché se io sono Iron Man... Io sono iperbracciante agricolo con sottopagato. Perfetto. Fabio, tu chi vorresti essere? Io sono l'ex Nicotina, che è fratello di Lex Luthor. Wender, ho paura. Wender. Io sono Sburrone Man. È francese. Però devi dirlo con l'accento. Occhio. Sono occhio. Sburrone Man. Perfetto, occhio. Squalo, tu chi sei, scusa? Guarda, io sono Macho Man, però... Macho Man, lui è l'uomo capatonda. Oppure scemo man, come volete voi. Scemo man. Io farei monzoloide man. No, va bene scemo man. Marco, Fabio, scusa Pippo, tu invece? Io sono Marchetta man. Anche pollice sardo man, ecco, comunque. Chicca, tu chi ti senti? Tettina man. Wonder Woman in questo momento. Anduia Woman. Sai chi è? Lei è Woman Man, la donna uomo. Sarebbe strano come. Oppure Man Woman. Guarda la faccia di lei. Woman Man non l'ha mai fatto nessuno, woman, però la donna uomo. Ma che cazzo. Guarda che c'è rimasta male, guarda. Cioè, va nella cabina, si trasforma e esce col pomo d'Adamo i baffi. No, esce uguale a prima, si cambia solo di vestito. Si ha gli occhiali, però non la riconosce. Va bene, noi invece abbiamo immaginato un mondo con dei supereroi un po' diversi, ragazzi. Oggi tra l'altro è una puntata molto triste perché è la fine dei super noiosi, ragazzi. No, che cazzo sono i super noiosi? Li ha ammazzati tutti quel bastardo di Thanos. Maletti. Se ci colleghiamo con i super erotici. Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia. Questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male. Mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano... Baciamelo piano. Super erotici. Mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola. Quello è Iron Man. Cappella, dammi i dati di volo. Fabio Volo, nome d'arte di Fabio Bonetti, nato a Calcinate il 23 giugno 1972. Attore, scrittore, conduttore televisivo e stentatissimo signore. Il classico comunista con i Rolex. Rolex. Ottimo, Cappella. È venuto il momento di provare i nuovi spermadroni. Signore, gli spermadroni sono ancora in fase sperimentale e glielo sconsiglio vivamente. Sperimentale. Lancia gli spermadroni, Cappella! Come desidera, egocentrico pezzo di merda viziato. Spermadroni attivati. Ah, in faccia no, ma che schifo! Ma no, mi sto faccia! Saporito però. La Madonna. Ragazzi, te lo avevo detto. Brutto coglione in armatura. Sì, chi è? Donna Pompino. La donna Pompino dice: Iron Pena, il malefico Thanos sta uccidendo tutti i super noiosi, dobbiamo fermarlo. I super noiosi. Ricevuto, sgranocchia filetti. Cappella, rotta verso la base. Super erotici. La situazione è gravissima. Il malefico Thanos ha scagliato la sua ira contro i super noiosi. Purtroppo molti di loro hanno perso la vita. Facciamo un minuto di silenzio in memoria di Scopo solo con la luce spenta Woman, l'uomo diapositive sulle vacanze a San Marino, addestratore di Cactus Man, Luciano Wonder Woman, il doc... Chi è Luciano Wonder Woman? Il doc... Scusate, era commozione. Il dottor Opzet. Opzetek. Anche scritto. Il dottor Opzetek. No, Opzetek. Opzetek, ignoranti. Dottor Opzetek. Bravo. Il dottor Opzetek. Addio, quanto mi dispiace. Addio, che voglia di ascoltare Gloria Gaynor. Non piangere, Squirtaman. Ora è il momento di vendicarsi. Forza, all'attacco, super erotici. Sono Thanos. Ma chi è? Thanos. È Thanos. Lascia stare l'uomo rosicindi, che è inchiavabile proprio. E perché? Se no cosa fate? Vi facciamo vedere. All'attacco, super erotici! Dannazione, fortissimo! Ci inculerà tutti! Abbiamo bisogno di rinforzi! È giunta la tua ora, Thanos! Ah sì? E tu chi saresti? Sono Dead! Dead? Dead cosa? Deadpool? No, Dead Cool. No! No! Non capisco mai se gode o soffre. Tutte e due! Ho vinto! Chi è questo? Che cazzo c'è? Chi è questo? Chi ha vinto? La super vinto! Super vinto! Sì, ma che cosa pensi di aver vinto? Ho vinto che ho vinto! Scusate, super erotici, un secondo solo. Ma questo da dove cazzo arriva? Chi l'ha assunto? Chi è? Iron Man, ma anche tu lo sai che in questi casi è il cugino di un nostro amico. L'ha portato a vedere i supereroi. Ah. Tu devi soltanto dirgli bravo, bravo, capito, no? È un disadattato, accogliamolo un pochettino. Ma Thanos, tu non sei dalla nostra parte. Ma mi dispiace per questa allora merda, tutti cazzo! Dai, bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Sì, che bravo! Sì, sì, hai salvato il mondo, bravo! Il disgraziato. Ho vinto che ho vinto. Ho vinto che ho vinto. Cioè, super vittorio. Attenzione, attenzione, Rovazzi ha risposto a Paolo Nois. Per dimostrare quanto è un bravo ragazzo, senti il messaggio audio che gli ho mandato. Ciao Fabio, senti, scusa se ti disturbo a quest'ora. Sai che ore sono, per piacere? Rovazzi. Sono risposto. Le 14:13. Alla prossima. Cioè, potremmo fare un servizio considerando che è anche piuttosto impegnato in questo momento. Alla prossima. Devo veramente ammetterlo, cioè veramente una persona incredibile, guarda, è pazzesco questo personaggio, che l'uomo più buono del mondo, un supereroe. Sai che io qualche volta lo chiamo di notte, ho bucato, mi viene a prendere. Beh, ha sempre un orologio, tra l'altro, cioè questa è una cosa strana, come fa questa persona? Vabbè, anch'io c'ho sempre l'orologio. Che cosa vuol dire? Considerazione è, volevo, scusami, trovare un superpotere. Cioè l'orologio ce l'hai tutto il giorno addosso. Vabbè, volevo trovargli un superpotere che non l'ho ancora detto. Tu sei proprio super comunista antipatico. Volevo partecipare. Mica che brutto carattere. Volevo essere parte degli amici. Io non ce l'ho il numero di Rovazzi, volevo sentirmi parte dell'amicizia. Ragazzi, c'è un problema molto serio che dobbiamo affrontare, visto che si parla di personaggi famosi. Ce n'è stato uno che è stato in auge per tantissimo tempo, un uomo che ha fatto parlare di sé male, ma tanto, e purtroppo, come ci insegnano i media, soprattutto quelli italiani, se tu sei un delinquente, un ladro, una merda, un truffatore, vai in giro con le pistole timbrate e tutto, alla fine diventi un uomo famosissimo al punto di guadagnare così tanti soldi da doverli nascondere in contanti nei controsoffitti, di robe casa, varie, da doverli rinfrescare nell'aria condizionata. Nonostante quest'uomo avesse fatto anche, quanto ha fatto di carcere? 4 anni? Adesso anni? Non vorrei dire cazzate, mi sembra qualcosa più di 4 anni più o meno, però dentro e fuori un po' in comunità, insomma, non continuativi, però questa è in ballo da 4 anni. Non ha ancora imparato la lezione, questo è abbastanza evidente, perché quando uno nasce testa di cazzo muore testa di cazzo, ma è così, anch'io sono testa di cazzo, non guarirò mai, evidentemente lui nemmeno, ma ha un problema grosso, ragazzi. A quanto pare a Corona non ci funziona più. Chi l'ha detto? Ha dichiarato che durante la detenzione in carcere è stato sottoposto a una terapia di tranquillanti per limitare la sua aggressività e praticamente la libido. Non gli tira più il cazzo. Però quando vede un assorbente interno si trasforma in Hulk. No, allora. Siccome lui è molto innamorato della Provvedi, non mi ricordo mai quale delle due. Silvia Provvedi, ok. Che la ex non è la ex di Giulia. Non siate maleducati, devi dire quella di sinistra o quella di destra. Non lo so, non le conosco così bene da sapere cosa la mora, votano. La mora? Comunque la mora, eh? La mora. Stavo appunto aspetta, dicendo, aspetta, dividiamole bene. È quella che preferisce la Bentley o quella che preferisce la Lamborghini? Che adesso non mi ricordo. Parli di cose che non conosco, Marco. Cioè, non posso dire se non so. Vabbè, comunque la fidanzata è Silvia Provvedi, giusto? Sì. Siccome sì. lui è stato in carcere e giustamente ti danno i tranquillanti perché sennò la gente si piglia bottigliata e non gli tira più il cazzo. Però lui ma siccome, non è possibile. Siccome la ama tanto. Ma un tranquillante non può avere questo effetto collaterale. Beh, alla lunga, Marco, se ti spari 4 anni di tranquillanti, secondo me un pelo al corpo spugnoso si abbiocca. Però lui comunque ha detto che la ama così tanto che è disposto ad ammettere di prendere il Viagra e fa prestazioni da 2 ore con il Viagra. Eh beh, grazie. Allora, posso dire una cosa? Adesso distruggo il mondo dei maschi. Allora, il mondo è cambiato tantissimo da quando quel signore là ha inventato quella pastiglia blu. Tante volte mi sta sul cazzo sta roba, perché tu incontri persone e ti dico, ah, ma sai, ho conosciuto uno, mi ha scopato per 4 ore, poi è venuto e poi mi ha riscopato di nuovo. Ha preso il Viagra. Ma boh, ma cosa no? Allora avrà preso il Cialis. Ma no, figurati. Praticamente il 90% degli uomini, anche quelli senza problemi di erezione, lo usano soprattutto le prime volte, perché cazzo lì sei il numero, diventi Rocco Siffredi in un attimo. Ma che voglia ci avete di scopare per 4 ore? Cioè, dopo 20 minuti mi sono tutti coglioni. Vabbè, pensa lei con te. Appunto, cioè, fai un po' i preliminari, va bene, dai, ti diverti. Poi il resto. E poi c'è da dire anche all'uomo, c'è da dire che la donna, una volta che ha raggiunto, diciamo, il. Dopo un po' si rompe anche i coglioni, cioè fa 4 ore veramente. 4 ore? Cioè, anche il film più bello del mondo, sì, dopo 2 ore ti rompi i coglioni. Allora, signori, ma adesso rivolgiamoci a quelli che non c'hanno tutti, perché sta roba costa. Allora, rivolgiamoci a quelli che non c'hanno i 50-60 euro da spendere. Bravi, andate tutti su www.superminchia.it con la K. E se non c'hai neanche i soldi per superminchia.it con la K, per il wifi e tutto quanto, allora, con una mazzetta da 5 kg da muratore, ok? Centri bene il pollice. Sì, ma no. Okay. No, poi no, lo infili dentro i pantaloni, lo metti intorno al calato. Allora, il gonfiore e il torpore che si crea nel dito, che diventa grosso e nero, tutto bello duro per settimane, tu la puoi chiavare. Se no, altro sistema molto artigianale. Allora, tu metti il preservativo, sì, poi metti dell'acqua nel preservativo, no, quando hai, no, metti il cazzo in freezer, là il ghiaccio occupa più spazio, ma è lunga la martellata, è la mia minchia, no, ma ha ragione Paolo, ragazzi, il pollice, chiediamo a Pippo. Ma perché mi fanno male i denti, Mazzoli, però i riflessi sono ancora Pippo buoni. C'ha anche il cazzo opponibile, perché me. Parli come John Wayne Palmieri, c'ho mezza faccia addormentata, Ti senti come squalo, allora John Wayne. Ehi, allora senti un attimo, caro regista del programma più ascoltato in Italia, allora ti metto la base giusta. Dimmi, c'hai per caso dimmi. Voglia di premere con quel bel pollicione il tasto che fa partire questa bellissima scenetta che parla di un medicinale che potrebbe aiutarti con i tuoi problemi di erezione? Sarà fatto, Iron Man. Andiamo. Non ti sforzare, Iron Man. Ogni giorno nel mondo milioni di persone soffrono a causa della propria lentezza nel compiere azioni o elaborare ragionamenti. Questi sfortunati vivono uno stato di precarietà che lentamente li trascina in una tremenda spirale depressiva che alla fine li uccide male. Ora di dire basta! La Franco Farm, nella persona del dottor Franco, ha genialmente brevettato e studiato un farmaco che ha la capacità di cambiare lo stato delle cose in poche semplici applicazioni. Speedy Gonzalina Fast. Grazie a Speedy Gonzalina Fast, un essere umano potrà lentamente mutare nelle fattezze e nelle abitudini in un vero topo dei cartoni animati, il celebre Speedy Gonzales, che tutti conosciamo come uno tra gli esseri più veloci al mondo, dotato di una incredibile astuzia. Assumere i poteri e le fattezze di un enorme topo velocissimo con accento messicano potrà garantire il successo in una società basata sulla velocità. Geniale, no? Corri in farmacia e muta in un topo gigante di 2 metri che svicola velocissimo tra le incertezze della vita grazie a Speedy Gonzalina Fast. Speedy Gonzalina Fast è un prodotto Franco Farm. Attenzione, l'assunzione anche di una sola goccia di Speedy Gonzalina Fast potrebbe avere effetti collaterali gravissimi, quali lentezza estrema. No, scusa. Formicoli multipli agli arti in qualsiasi posizione assumiate per scopare. No. Tappi di sughero al posto delle lacrime. Mille chiodi di ferro rovente che fioccano dal cielo al posto della pioggia appena uscite di casa per festeggiare qualsiasi avvenimento felice. Ingigantimento dei piedi in maniera estemporanea durante l'arco della giornata. Figa. Aggrottamento perenne del viso con conseguente perdita di affetti e amicizie perché cominciate a stare sul cazzo. Sì, ci credo, sempre incazzato. Solo e sempre pasti frugali anche a Natale e ai matrimoni. Che tristezza. Tutti che ti mettono le mani addosso, a prescindere dalla discussione. No, sempre tutti. Mutazione immediata delle mani in coccodrilli poco socievoli. Tra di loro, tra l'altro. Nascita di un terzo occhio al centro del petto che ha sempre un po' di fastidiosa congiuntivite. Curioso potere magnetico nel pene che fa attaccare le monete nelle tasche ai coglioni. No. Dita a mazzi da 16. Perdite incredibili di denaro al gioco e solo dormendo. Come è possibile? Scusa. Solo auto esplosive come mezzo di trasporto. Sormontato immediatamente da un curioso arcobaleno che odora di piedi ogni qualvolta passeggi per negozi. Ammazzato a bastonate dallo Shurpadrum dalle belle braghe bianche. Ah, proprio da lui. Finito da napalm, avanzato dal Vietnam e che un nostalgico ha deciso di riversare su di te perché hai fischiato ad una bella figa che alla fine si scoprirà essere neanche tanto di bell'aspetto. Hai capito, lento ignorante? Da oggi assumere le fattezze di un enorme topo deforme, ma dotato di incredibile velocità ed astuzia, non sarà più un problema, grazie a Speedy Gonzalina Fast. Speedy Gonzalina Fast è un prodotto Franco Farm. E con la prima confezione il libro dal titolo Accettarsi deforme e vincere le ostilità della società di fronte ad un topo gigante che parla messicano. Ho trovato un regalo per Squalo. Autoanalisi. Regalo per Squalo. Questo è il libro, come quale? Cosa ride? Era un richiamo, ragazzi, ne sta chiamando altri. Ma no, ha riso in messicano, non hai sentito? Ha chiamato altri Squalo. Programma che non piace e si ferma e va ad organizzare una serata indimenticabile per Mazzoli. Infatti, per fargli passare al meglio questo momento no della sua vita, i suoi migliori amici di Miami, ovvero solo over 70, lo porteranno stasera al bingo. Grande Marco! Ma non è vero! Divertiti! Allora, durante la pubblicità andate su Google e cercate Scarlett Miami, ok? Io stasera vado allo Scarlett di Miami. Mi giochi $3 sul 12? Non ricevo, riprova e controlla. Lost in Sia cazzo bella, dici, ma è stata numero uno per 7 settimane di fila in tutte le classifiche del mondo. È ora che si levi dalle palle. Scusate, il nostro pubblico recepisce, è stata la numero uno. Cioè, purtroppo sì. Non parliamo in maniera troppo complessa, per piacere. È stata la numero uno. La numero uno per 6 settimane di fila in tutto il mondo. È ora che se ne torni a casa, al suo paese. Ma voi avete visto che cazzo è successo l'altro giorno con l'ombrellone, la tizia in spiaggia? Eh no, era in New Jersey, Marco, non è proprio qua dietro. Vabbè, ma l'ha fatta vedere dappertutto, non è che devi per forza essere in un posto per vederlo, scemo. Scusa. No, e se fosse successo qua in Via Turati? Oh, avete visto la tipa in Via Turati? Minchia, sta tipa è stata impalata da un ombrellone che è volato via col vento. Oh la Madonna, che sfiga, come nel film. Aia, lettalo! Cioè, è volato via da uno stabilimento vicino a lei e gli si è conficcato nel culo. Ma quante possibilità c'è? Se succedeva a me, correvo a prendere un gratta e vinci. Cioè, Chicca, mi fai una cortesia, se riesci, magari prima della fine della puntata. Ti infili un ombrellone in culo anche tu. No. So che c'è un sito che raccoglie praticamente tutte le morti o comunque gli incidenti assurdi accaduti a esseri umani in posti impensabili, in modi impensabili. Questa è una raccolta della Hobby & Bobby. Tutti gli oggetti che ti finiscono in culo durante il maltempo, cioè per colpa degli uragani, è palesemente un open body per morire. C'era su di mano, se non sbaglio, c'è una signora che stava praticamente armeggiando nel suo giardino, ma questo anni fa, e le è caduta una meteorite in testa. Poi tra l'altro era una pietra piccola, cioè era un sasso abbastanza piccolo, però immagina la velocità con cui è caduto, l'ha aperta in due. Scusa, ma quello che è sopravvissuto al fulmine, l'ha ucciso l'ambulanza, era sul giornale qualche settimana. Lui è stato colpito da un fulmine, non era morto, hanno chiamato l'ambulanza che ancora respirava, è arrivata l'ambulanza. Dov'è? L'ha schiacciato. Non è vero, comunque l'ha inventato adesso. Ma vaffanculo. Aspetta, hai sentito una cosa? Un piccione mi ha cagato in testa una volta. Però potevi lavarti i capelli. Racconto. Bravo. Grazie. Bravo. Che racconto. Ho vinto. c'è Thanos, così almeno gli fa l'applauso anche lui. Thanos. C'era un film bellissimo qualche tempo fa, che era tipo Mille modi per morire nel West. Non so se in Italia bellissimo lo hanno diffuso. L'ha scritto, cioè. E il regista era quello dei Griffin. Dei Griffin. Cioè, tu non l'hai visto, invece, Marco? Com'è che si chiamava quella serie invece? No, quello no, non l'ho mai visto. Ma si chiama quello dove morivano tutti in maniera assurda? Final Destination. Ah, madonna. Final Destination. Sì, mille modi per morire nel West è devastante. Anche perché sai che lui è fissato con Ritorno al Futuro. Sì. C'è un momento in cui passa davanti a una stalla, apre, c'è dentro Doc Brown con la macchina di Ritorno al Futuro. È vero. No. Geniale. Non l'ho visto. È bellissimo, guarda, Mille modi per morire nel West. Praticamente c'è questa cittadina nel West dove se tu sei parte, sei uno degli abitanti, muori prima o poi in modo assurdo, ma tipo schiacciato da un blocco di ghiaccio, calpestato da un cactus gigante parlante. Cazzo, bellissimo, lo devo vedere, stasera me lo guardo, cazzo. E purtroppo l'hanno tolto. Rinuncio alle puttane, stasera non vado allo Scarlett. No, vai allo Scarlett. Ricordati il 12 $3, Se volete vi faccio un regalo. Io stasera realizzo il sogno di tutti quelli che vorrebbero, non so, venire a Miami e fare una roba proprio all'americana. Sì. Se volete vi vesto di pelle, mi faccio, devo trovare un cappello da cowboy, prendo l'Harley e vado a fare una roba, vado allo Scarlett veramente. Ma in un locale gay, Marco? Ma, aspetta un attimo, ricordiamo che negli Stati Uniti prendere, vestirsi di pelle con un cappello cowboy e guidare un Harley è del tutto normale. Anzi, aspetta. A Miami scopi. Oh, bello sto Scarlett. Aspetta un attimo. Allora, la Chicca ci ha trovato il sito. Quanto sei brava, Chicca. Scusa Marco, ma lo Scarlett è un locale di spogliarellisti uomini per donne? No, è pieno di puttane. No, stiamo vedendo un uomo di colore davanti a delle donne urlanti, perdona. No. Sì, Marco, abbiamo la foto davanti. Non sono mai stato, ma hanno detto che è un posto fighissimo per andare a... Scusa Marco, prima la foto, c'è Ben The Rock Johnson lì, in costume. Scusa, c'è un uomo di colore vestito da supereroe con intorno delle donne che urlano. Perdonami Marco, ma io non vorrei mai... Perché loro ti fanno sentire negro supereroe, questo è il senso, capito? Oh, senti... Se non ci mandi foto meglio. Ok. Cioè, domani ci racconti tutto, però. Se vi mando una foto dove sembro impalato da un ombrellone, ma in realtà è cazzo di uno nero, allora vuol dire che ho sbagliato. È sempre divertimento comunque. Allora, l'autore ateniese Eschilo. Fantozzi. No, Eschilo, Sofocle, Euripide sono i tre tragediografi greci. Venghi! Ma vai a fare in culo. Cioè, Aristofane, vabbè. Venne ucciso da un'aquila che lo lasciò cadere. Cadere in testa una tartaruga. La tartaruga, perché vero. Era pelato, no? È una leggenda che si racconta del povero Eschilo. Poi il re d'Inghilterra Edoardo venne ucciso inserendo un corno nel suo ano. Non ci credo. Volevano suonargli il culo. Ognuno si diverte come può. Hans Stenginger, un politico austriaco, si ruppe l'osso del collo inciampando nella sua lunga barba. No. Quanto sei stronzo. Cazzo, ma di non ci posso credere. Poi c'è un altro re della Svezia, Adolf, non è quello col braccio destro. Morì dopo un pasto esagerato che alla fine comprendeva anche 14 portate di dolci. Che cazzo, godo. Anche ma regolati, zio. Però, che chimica, cazzo. Io conosco un signore che gli è scoppiato il cazzo. Cosa leva stai la base dicendo? Palmieri, perché è un momento. Cosa stai dicendo? Wender, vieni qua. Dove arrivare? Un signore che abita su nella Bergamasca, un contadino. Sì. E un giorno gli è scoppiato il cazzo mentre lavorava. Non scoppiano i cazzi. Ma è stata l'ISIS, ha rivendicato? No, ma proprio è stata una roba automatica. Cioè, i cazzi non scoppiano. Non scoppiato, ragazzi. Ma non può scoppiare. Non è che non c'è esplosivo nel pene. Non può ma sarà magari una bolla di sangue, una roba del genere. Le bolle di sangue non scoppiano. Gli è scoppiato a buccia di banana. Adesso vi mando le foto su. Grazie. No, capisci. Anche Tom and Jerry, vero, in quella puntata. Lì anche il coyote. Non lo so, io ero sul divano. George Herbert, nel 1923, un nobile inglese, morì dopo aver involontariamente tagliato via un morso di zanzara rasandosi. La ferita si infettò e morì di polmonite. Ma dai, scusa, anche Bob Marley si è fatto male giocando a pallone, gli ha dato un cancrena a un piede, morto. Ma perché non si è curato? Perché era Rastafari. Ho capito, Rastafari, mettilo in mare che si disinfetta, no? Non almeno. È vero, quello del mare che disinfetta è una cagata. Acqua salata. Dai batteri se rimane. Un certo Marco Iaco, detto Squalo, morì per un pugno in faccia dopo aver rotto i coglioni durante la puntata di un programma radiofonico. Giallo. Ma non ho parlato adesso. Adesso l'hai fatto. Volevo dire che c'era anche James Gandolfini, che era l'attore, quello dei boss dei Soprano, che è morto mangiando una frittura. Bravo! A Roma! Bravo! Mangiava la frittura di pesce. Sogno, soffia le candeline, vai. Detto questo, oggi ci colleghiamo con Gallipoli, un mondo che noi ci siamo immaginati dove tutti parlano come Gali, no? Sì. Sai, Neger che fa il rap adesso, che tra 3 settimane non si ricorderà neanche sua mamma. Detto questo, cazzo, poi ci siamo dimenticati della denuncia, ragazzi. Ne abbiamo parlato della denuncia. Ma no, meglio finché non sappiamo bene, meglio non parlare. Lasciamo parlare gli avvocati. Che l'ultima volta abbiamo fatto un mezzo casino. Lasciamo stare. Madonna mia, vabbè. Detto questo, anche in Gallipoli oggi parliamo di vacanze in Liguria. Voi sapete che la Liguria, quando arriva l'estate, è praticamente un ombrellone, una sdraio uno sopra l'altro. Sì. Sentiamo che cosa è successo. Andiamo, Pippo, vai. Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli. Buongiorno signor Bagnino, sono Rocco Materazzi. Ho prenotato su Booking ombrellone e sedia sdraio. Buongiorno signor Materazzi, tutto bene? Guardi che spiaggia ha visto, abbiamo tutti i tipi di lettini. Prego si accomodi pure. Non la faccia tanto lunga che ho i minuti di ferie contate. Mi dia quello che ho comprato che devo farmi l'abbronzatura. Mi dica prima di tutto dove ha visto questo Lido, se su internet o tramite degli amici oppure via WhatsApp. Ma si faccia i cazzi suoi, è il primo giorno di ferie, ho fatto 11 ore di coda per arrivare fin qua. Mi dia il mio cazzo di lettino, mi dia il mio cazzo di ombrellone e veda di sbrigarsi perché sono ancora bianco come uno stracchino. Va bene, si rilassi, su mi segua e andiamo in fondo alla spiaggia che c'è il suo ombrellone numero 30. Troppo vicino al parco giochi di quei cazzo di bambini. Va bene, allora ci spostiamo e andiamo alla 18ª fila. Guardi, da qua si vede tutto, non c'è vento ma costa meno. Questo ombrellone non mi piace, troppo vicino al bar. Va bene, non c'è problema, su mi segue, andiamo al 41. Come vede qua è più bello, anzi c'è anche i bagni vicino. Non sente la puzza di piscio? Io vicino ai cessi non ci sto con quello che ho pagato. Io ho capito tutto, lei vuole proprio il massimo. E allora andiamo in prima fila, guardi qui è stupendo. C'è la gente che gioca a palla e quelli col pedalò. Ci sono i bambini che urlano e le alghe di merda arriva. E allora figlio di troia vattene un po' a fare in culo. Te ne vai a 3 chilometri che c'è la spiaggia libera. Li potrai trovare un po' di tutto proprio fico, come meridionali con le tende, le grigliate, le lasagne. Comunque non è questo il modo di fare. Io ho prenotato in rete, ho speso un sacco di quattrini per arrivare a questo Lido. E adesso il servizio è brutto, e adesso la spiaggia è brutta, e adesso il mare è un cesso e il bagnino è un pezzo di merda. Piano con le parole. Che io lavoro tutto l'anno, sa? Io lavoro 3 mesi ma mi faccio un culo così. Io me ne sbatto il cazzo, adesso vado su TripAdvisor e segnalo che questo posto è un cesso di merda per colpa sua. Come? Oh, mannaggia me alla Liguria. Oh, bene, ritorno a Cantù. Oh, sti milanesi di merda. Oh, andate tutti a cagar. Molto ligure questo. Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli. Bellissimo, bellissimo. Però mi è venuta in mente una cosa. Sì. Ci ho pensato mentre andavo in onda sta scenetta. Ho pensato che ho deciso che ho un nuovo nemico. Una roba proprio che mi ha sempre dato in culo. Una roba che mi dà proprio fastidio. Sì. Il pedalò. Il pedalò è una roba. È una roba di una povertà, di una tristezza. Pedalò, è una roba di una bruttezza. Il pedalò è una merda. Hai ragione. È una roba anni 70 che va eliminata. Vero. Dobbiamo bombardare dal cielo tutti i pedalò del mondo. È una roba. Anche il nome. Ma pedalò. Poi anche il senso. Cioè la gente prende il pedalato, io vado a farmi un bagno al largo. Ma che poi mangiano e bevono come i cani, fanno tre pedalate, sono davanti alla gente che sta con l'acqua alla pancia. Alla gola, aspetta. Dai, mi tuffo, testate sulla sabbia, sul fondo. Con quel cazzo di scivoletto di merda dietro che ti incastri sempre pieno di sabbia che ti gratta il culo. Poi per risparmiarlo prendono in 44, che i due che pedalano tornano indietro che sono Van Basten e Rijkaard dell'87. Ma vuoi mettere un bel Sea-Doo, un bel Yamaha con 300 cavalli che ti inquina bene il mare? Ma che bello! Vuoi mettere quello che ha detto lui che non ho capito? Ragazzi, ma vi rendete conto che una marea di nostri ascoltatori è già in vacanza? Sì, ad esempio, il mitico Andy della Cumpa è in Spagna e ci ascolta dal suo camper. Andy, mi raccomando, non esagerare, perché al tuo rientro dovrai mostrare il meglio di te nella posatura delle piastrelle in casa Palmieri. Il suo quadrilocale di 60 metri quadri ti aspetta. Quadrilocale 60 metri? Bello! Quadrilocale di 60 metri? Perché voi ragazzi, non ce l'avete così? Qua sono quattro ascensori, cioè. Ma voi state perdendo il senso di tutto, cioè questo riesce a marchettare in ogni dove. E noi abbiamo salutato un nostro ascoltatore che è Andy, basta. Andy, fratello mio, sei un caro amico, ti voglio un bene dell'anima, poi è una famiglia meravigliosa e tutto, ti prego, fai... Ma ragazzi, siamo in ritardo. Sei una merda, Pippo! A dopo, ciao! Attenzione! In questo programma vengono usate parolacce e volgarità in generale. Se siete particolarmente sensibili a certi argomenti, vi consigliamo di non ascoltarlo. Vi ricordiamo che ogni riferimento a cose o persone reali è puramente casuale e del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Con lo zoo si mangia bene, con lo zoo si studia bene, con lo zoo si balla bene, bacia bene, ama bene. Con lo zoo l'italiano, da Palermo a Milano, parla bene, ride bene, vive bene. Scoppa bene, con lo zoo si mangia bene, con lo zoo si studia bene, con lo zoo si balla bene, bacia bene, ama bene. Con lo zoo l'italiano, da Palermo a Milano, parla bene, ride bene, vive bene. Scoppa bene. Show me. ci sta, Paolo, vai, qua ci sta, qua ci sta, vai, vai, vai, vai, vai, qua ci sta, vai, vai, vai. Ciao a tutti, io sono David Guetta. Perché al saziano? Una volta tanto che potevi fare il francese. Perché bavarese? Oddio, morto Palmieri, ragazzi. Palmieri è morto, non ce l'aspettavamo. Non ce l'aspettavamo, non ce l'aspettavamo. È morto Palmieri, ragazzi. Madonna mia. Quello che gli fa male i denti sbagliati. Pippo, Pippo, tutto a posto. Ragazzi, non riesco a aprire la bocca, porca troia. T'avevo detto di non passare il fine settimana a ciucciare i cazzi. T'avevo detto. Sai che comunque nei periodi bruttissimi della tua vita, sì, l'unica cosa positiva è, oddio, che dimagrisci di brutto. Sai che ho perso, avrò perso 5 kg, cioè, mi vanno le camicie larghe. Cioè, avevo delle camicie che le mettevo, sai proprio che. Sei quello, ciao ragazzi, tutto a posto? Adesso che mica, non puoi mettere larga neanche le sigarette nella tasca, capito? Mi sono sgonfiato. Cazzo, proprio è vero, di brutto. Ma anche no, guarda, guarda, guarda, non c'ho si più vede, la base. È vero, è vero. Mi ma se non ne metti più, no, che va, deficiente. Sei sempre stato. Io vedo. Ah sì? Sì. Vabbè, Pippo, sai che Pippo è un personal trainer, cioè insomma, lui se ne intende di corpi, eh. C'è un fisico quel bastardo di Palmieri. Scusa, non ho capito, Pippo, ma ti hanno tolto un dente o sei andato in una fumeria, no, da oppio? Perché hanno tolto un dente perché c'è stato un problema di granulomi, ste cose così. Perché non vai a Firenze. Pensa te, pensa, una volta il nostro problema era, litigavamo, mi ricordo, sui divanetti delle discoteche, me la scopo io. No, questa me la faccio io. Adesso parliamo di denti. Gente con le protesi, gente che. La discussione, no, era, me la scopo io, no, me la scopo io. No, tanto se la scopa Fabio, cioè quella era la discussione. La discussione era se la scopa Fabio o no se la scopa Fabio. Io mi ricordo solo di una volta che eravamo in un locale, non ricordo dove, e Fabio era veramente ubriaco merda. E io e Paolo, per fargli uno scherzo, Paolo mi guarda e fa: vai, vai, vai, vai. C'era sta figa che gli piaceva a Fabio, eravamo tutti singola in quel periodo. Allora io apposta ho iniziato a rompere i coglioni alla tipa, a portargliela via a Fabio. Minchia, Fabio si è preso malissimo. Sono rimasto male. Dovuti andare via, ci hanno messo una cassa tra me e lui perché voleva menarmi, ma ero ubriaco, non riuscivo, allora, neanche a. Mi piace che la tua mente abbia ricostruito i fatti a modo tuo. In realtà io non ti ho detto un cazzo perché sicuramente ero fatto come una merda. Quindi al massimo ho detto, tu mi hai chiesto cosa, io ho fatto i versi tipici di uno messo una merda. Comunque mi hai fatto saltare la cassa, la tenevo io e cercavo di dividervi perché portavo in questa bara con dentro i microfoni. Voi che cercavate di picchiarmi, io che reggevo 60 kg. Ah, è vero che una volta noi, la gente non lo sa, ma noi una volta avevamo questo cazzo di scrigno delle bara, serate. La bara. Avevamo, sì, la lo bara, scrigno del tesoro delle serate, che era una pesantissima, con dentro una quantità di cose. Pensa, allora, per i più giovani, no? Il DJ una volta doveva andare nel locale coi dischi, coi vinili, sì, e pesavano una cifra. Quindi tu avevi, se eri un grande DJ, volevi far bella figura, arrivavi in discoteca, avevi tu due valigie pesantissime, più il portavalige dietro, ma, che te ne portava altri due. Ma noi non avevamo i vinili, noi avevamo i CD. No. Era il porta videoregistratore con il mixer, perché ogni volta che andavamo in un locale c'era un problema e Marco voleva mettere sempre i video col televisore, non solo, che cadeva. C'era dentro quattro microfoni, ricevitore, esatto. Era la nostra console. Cioè tutto l'inutilità della tecnologia. Poi c'era un cazzo di 35. Noi eravamo strava, ma ti rendi conto che noi andavamo in discoteca e proiettavamo i video e la gente stava e guardava. E due palle. Ma un periodo ancora aveva senso, dai. Eravamo avantissimi, dai. La gente voleva ballare, devi lì a fargli vedere il film delle tue vacanze. Adesso è facile, adesso c'hai un bel culo, fai tre foto, madonna mia, aspetta, questa è bellissima. Io adesso sto apposta, sto seguendo delle persone perché mi fanno ammazzare da ridere. Ci sono queste mezze troiette, no? Che per fare tre like, no? Cosa fanno? Si mettono, adesso la moda è, la posizione è lei in piscina col culo di fuori, sì, con il costume da bagno praticamente che non esiste, con queste belle chiappe in vista. Magari. Lei che guarda l'orizzonte e poi scrive una frase, sai, super profonda, rubata a Coelho. Tipo, questi sono i momenti della vita in cui capisci che l'energia ti penetra. E sotto i commenti sono: che schiaffi su quel bel culone di merda. Maglia di merda. Però il peggio si raggiunge quando nella foto di questa donna seminuda in una posizione pecoreccia, c'è una roba incredibile, c'è: ma secondo voi la pasta scotta fa dimagrire? Sushi o pizza? Cioè, quelle cose che non hanno pertinenza neanche con la nudità. Ma comunque adesso ormai siamo arrivati a quello, capisci? Cioè non c'è più neanche la creatività. Ormai il compitino del giorno è fare una foto che ti consente di portare a casa dei like. Ma non è creatività quella. La creatività è un'altra. Ragazzi, noi avevamo un ottantenne che veniva vestito con una tuta di licra, vestito da supereroe rosa, Zizzagna Man, con i capelli tinti. Vabbè, ma quella è la sopravvivenza, non è la creatività. E cantava in pugliese. Ciao Leo. Quanto mi manca, mamma mia. Parca troia. Comunque dai, parliamo di robe allegre, oddio, neanche tanto. Pare che l'ONU e l'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, abbia deciso di etichettare alcuni prodotti alimentari italiani, tipo il prosciutto crudo, l'olio, la pizza, il parmigiano, con delle scritte molto simili a quelle che compaiono sui pacchetti di sigarette. Ma... voi direte, ma che cazzo? Ma... sì, allora scrivono tipo diabete, cancro, malattie cardiovascolari sono infatti le principali cause della morte nel mondo, industrializzato. Fanno questa roba per ridurre il consumo di cibi ricchi di grassi. Allora, siccome il pianeta è diviso così, no? Allora c'è una parte del pianeta che crepa di fame, denutrizione, acqua inquinata, eventi naturali. Poi c'è l'altra parte del mondo, che è quella che detiene il 95% della ricchezza, che muore perché ha troppo. Quindi moriamo perché l'aria è troppo inquinata da troppe industrie, troppe macchine. Mangiamo troppo, quindi moriamo di infarto per i grassi, per il diabete, per il colesterolo nel sangue, no? Questa roba fa riflettere. Cioè noi moriamo perché abbiamo troppo e gli altri muoiono perché hanno troppo. Perché non hanno un cazzo. Allora l'Organizzazione Mondiale della Sanità cosa dice? Facciamo in modo che chi ha troppo non mangi più le cose sane, tipo il parmigiano e il prosciutto crudo, ma beva la Coca-Cola, perché la Coca-Cola adesso è senza zucchero. Quindi loro che cosa pensano? Tu sei grasso perché ti mangi il parmigiano che ha tanti grassi, non perché ti strafotti la vita con uno stile alimentare da coglione. Ecco. No, cioè la colpa non è di come ti alimenti tu, ma dei cibi che hanno tanti grassi. Quindi ragazzi, se tu mangi una Pringles, sei un grande. Se tu ti Io vivo in un paese che adesso, Miami per esempio è un caso un po' a parte, però le grandi città americane si stanno un attimino adattando e stanno capendo che non puoi continuare a mangiare merda tutta la vita perché poi muori di infarto. Certo. Questi diventano dei bauli di merda. Cioè, tu lo sai come sono gli americani, ma mangiano merda tutta la vita, ma di chi è la colpa? Dell'informazione. Se tu nasci e cresci con una televisione che ti continua a bombardare di pubblicità di hamburger, pizze strafarcite, robe piene di conservanti. Che fame, cazzo. Madonna, anche veramente. Che stronzo. Bibite piene di coloranti, schifezze, merde varie. E tu pensi, se la televisione, che dovrebbe essere onesta e pura, mi dice che questa è la roba che devo mangiare, io mi fido e mi nutro di merda. È una questione anche di informazione sbagliata. Adesso, per esempio, Miami, che stracolma di gente che arriva dall'Italia, dalla Francia, dalla Germania, comunque che abbiamo culture culinarie molto, molto più importanti, stanno imparando a mangiare bene. Però il problema è quello che noi italiani abbiamo perso la cultura del cibo. Quanti anni sono che adesso hanno voluto importare la merda americana, gli hamburger, tutte queste schifezze, e abbiamo perso un po' il senso della nostra arte culinaria, perché diciamocelo, i nostri nonni campavano fino a 93 anni e mangiavano comunque il cibo classico italiano. Sì, non può far male. Ma c'è anche da dire che il junk food, il problema è che costa meno. Cioè, ti costa meno andarti a ingozzare in un fast food che andare a fare la spesa e cucinare a casa, ragazzi. Cioè, quindi c'è la gente che magari ha meno potenzialità economica in questo momento, è tanta. Ma tu Paolo l'hai visto, i supermercati americani hanno file infinite di prodotti surgelati, cioè lasagne. Ma come fai a mangiare quella merda anche lì? La pasta io la cosa che invidio agli americani è che trovi tutto già pelato. Spray. Tutto spray è già pelato. Sì, cioè, se tu hai voglia di l'abbacchio spray, l'uovo sodo già pelato. No. È vero, senso di sano ti può dare un uovo sodo? Oppure la bistecca di pollo già tagliata a strisce, predigerita, cucinata, predigerita solo da scaldare al microonde. È un paese consumistico. La cultura americana si basa su un solo fattore: fare denaro tutto il giorno. Cioè loro parlano solo di quello: devi fare soldi, vai a scuola da bambino, devi diventare ricco, devi fare soldi. Conosci le persone, ci vai a cena. Dopo tre minuti le domande sono: quanto guadagni? Quanto fatturi? Ma che lavoro fai? Se vedono che non sei una persona interessante per il loro portafoglio, dopo un po' l'amicizia si scioglie. È solo una questione di interessi. Io ho un amico americano che è diverso da quelli che ho conosciuto nell'arco degli anni. Però anche lui, in fondo, se non vede che c'è interesse, se non c'ha un cazzo da guadagnare, dopo un po' sparisce. Ed è tristissimo. Infatti gli americani sono soli. Cioè, è un popolo di solitari, perché non c'è la cultura del... la cumpa, gli amici, uscire, divertirsi, godersi però, la vita. Però allora è lavora, lavora, guadagna, guadagna, lavora, lavora, e si riempiono di merda, mangiano merda. Obiettivamente comunque il discorso di mangiare bene è una questione culturale. Allora, invece di io faccio una proposta, invece di fare questi programmi come MasterChef, che per carità sono programmi bellissimi, MasterChef quattro ristoranti, prendiamo i grandi chef italiani e li mettiamo a fare dei programmi di informazione dove ti spiegano come fare da mangiare per una famiglia di quattro persone con 13 euro. Non le uova di caviale ripiene di cazzo di dinosauro. Zitto, che per l'inventato di Zabaione, cretino. Scusa, zitto. Tu metti cannavacciuolo che viene dal paese dove pescava quello che mangiava. Gli dici: Andoni, questa sera devi spiegare a 150.000 persone come si fa da mangiare il pesce con 15 euro. Cosa posso cucinare con 15 euro? E lo puoi fare. Quello è un programma utile alla società, insegnare la gente a mangiare. Alfio, che sì. Alfio? Allora, hai sentito tutto, no? Adesso deposita tutto a nome mio, Marco Mazzoli, esatto. Ma va, l'avranno già fatto adesso in questo momento a Magnolia, stanno già girando. Hanno appena eliminato Francesco. Cucinato con 19 euro. Francesco spaccava. Anche Grisù è andato. Cazzo, è bellissima come idea, perché se tu gli dai un budget e loro devono veramente cucinare con quel budget, è una figata pazzesca. Cioè, così tu rappresenti una famiglia tipica italiana che però manca la spettacolarizzazione. Devono farlo tutto impennando con la Vespa, cosparsi di polonio. Sì. Io che coglione che sei. E se no non c'è lo spettacolo, scusa, il brivido. Capito? Ma non dimenticate, signori, non dimenticate la piaga del mondo, sono i pedalò, ricordatevi. Bravo, i pedalò sono merda. E i tennisti. Hashtag di oggi. Con 5 euro? 5 dollari. Cosa ha detto? Io a Miami ho mangiato con 5 dollari, ricordo. No, aspetta, non ho chiuso. Ha detto che lui a Miami ha mangiato 5 no, dollari. Scusate, un attimo. Aspetta un attimo. Allora, questo finestra di Windows. Allora, perché aveva ancora aperto la finestra di inizio puntata. Quindi l'argomento era aperto, era ancora. Allora, riavvialo. Aspetta, riavvialo. Faccio un defrag Ok, rifare uscita forzata. Riavvia. Ok, così fra un 5 minuti a poco. Stavo dicendo, ragazzi, mi raccomando, hashtag di oggi ovunque. Pedalò di merda, bravo. Il pedalò è la rovina del mondo, è una merda, è uno schifo, è poi brutto. Inquina. Ma non inquina, certo che inquina, è fatto di plastica. È un pezzettone nel mare. Di plastica, bravo, hai ragione. Dove vanno a finire i pedalò che non funzionano più? E poi scusa, pedalando tu scaldi l'acqua e aumenti la temperatura del pianeta. Bravo, ecco perché i pedalò sono il motivo del surriscaldamento globale. Giusto. Merda. Bombardateli quest'estate, il vostro unico obiettivo è affondare i pedalò. Bastardi. Vogliamo i pedalò a motore. Oh. No, Fabio, ma, non è ma così. Il nostro amico della zecca ha indagato per capire un po' sul Made in Italy, su questa nuova proposta, questa cagata terrificante. Ci colleghiamo con il nostro carissimo amico della zecca. Radio 23 centimetri presenta la zecca. Tutto il resto è noia. No, ma stiamo alla follia. Sentite questa, perché questa è meravigliosa. Allora, gente che da 50 anni si mangia gli hamburger col ketchup, le patatine fritte, e beve la Coca-Cola, adesso senza zucchero. No? Questa gente qua, ONU, Organizzazione Mondiale della Sanità, dicono che vogliono applicare delle etichette, su prosciutto crudo di Parma, parmigiano reggiano, olio extravergine, pizza, per dire che fanno ingrassare, fanno venire l'infarto, fanno venire il cancro, esattamente come viene fatto sui pacchetti di sigarette. Questa gente il 27 di settembre si riunirà a New York e deciderà se mettere sui prodotti, tipo, che cazzo ne so, il capocollo, un'etichetta con scritto che ti fa venire il cancro. Rendiamoci conto. Io non vi dico niente, vi ho già messo sulla buona strada. Voglio sentire voi, andiamo a Roma. Sì, se fanno male fanno bene. Secondo lei fanno male, parmigiano e prosciutto crudo fanno male? Se lo dice Fantino. Se lo dice Fantino? Chi è il Fantino? Chi è questa? Se lo dice il Fantino e Pernacchia? No, sai ragazzi, ma che cazzo c'è? Lo sconto sul peyote questa settimana. Dammene un altro, dai. Maurizio. No, io non sono d'accordo a niente. Sì, secondo lei fanno male le sigarette? Scusi, secondo no, lei... Fanno bene. Le sigarette fanno bene? Cioè, lei quante se ne fuma, scusi? Lei è fumatore? Se ne fuma 3 pacchetti al giorno. Lei fuma 2 giorni fa. Saluto, arrivederci. Lei fuma 3 pacchetti di sigarette al giorno. Cazzo, se ne fumi 4 perché è nervosissimo, brutto stronzo di merda. Un altro. Ma lo facciano sul loro cervello e scrivono sul loro cervello. Danneggia la vita della gente. Chi? Rompono i coglioni alla gente. Chi è che rompe i coglioni? Questi qua dell'ONU, ma con tutto quello che c'è da pensare. Ma il parmigiano reggiano fa male. Ma cosa c'è? E sulla bamba cosa scrivono? Cioè, la bamba non è così vendere nei negozi. Adesso non facciamo del altrismo, schietto, voglio dire. Ma scusi, su anche altri prodotti, sul grana padano e? Sì, allora, parmigiano reggiano, prosciutto crudo, sì, pizza e olio d'oliva. Sì. E sulla merda cosa scrivono? Si può mangiare. Sto parlando delle eccellenze italiane, questi qua ci scrivono che fa male. Sì. Ma tutto fa male se ne mangi tanto. Anche il salame ti fa male se te lo ficchi nel culo. Anche, troppo sì. Perché tu ti fidi piccoli pezzettini di salame nel culo? Io taglio pezzettini perché c'ho il culetto a salvadanaio. Com'è il culetto a salvadanaio? Se tu il salame che prendi tutto intero, lo tagli a pezzi e... Ah, fettine. Perché vogliono deteriorare i nostri prodotti. Sì, deteriorare, però non dire delle parole troppo difficili, Raffaele. È vero. Deteriorare, poi, dai. Poi non c'entrava neanche. Non c'entrava neanche un cazzo, dai, vatti a deteriorare tu e vattene a fanculo. Grazie, ciao. Vada a fanculo, Bruciani. Ciao, Raffaele, ciao. Un altro, dammi un altro. Scusi, ciao. Che mi ha fatto? Lei mi fa queste domande per telefono, io non gli rispondo, ma che cosa devo dire? Ma lei ha capito di che cazzo stiamo parlando o no? Lo ha capito o no? No, non ho capito niente. Allora, lei... Perché lei non si è spiegato e non mi interessa, guarda. Lei vende fottuti formaggi? Cioè, io... Scusi, già. No, ma lei è completamente ricoglionito, scusi. Lei l'hanno lobotomizzata. Controlli se ha una cicatrice sulla fronte, perché lei non capisce un cazzo. Controlli se ha anche due ferri che le spuntano dal collo, dei piedoni grossi, un colorito verde. Pronto? Sì, Frankenstein, mi capisce adesso? Buongiorno. Buongiorno al cazzo. Lei vende formaggi? Ma io non c'ho tempo di stare solo. Ma come cazzo ragiona? Guardo. Se lei domani sul fottuto parmigiano dovesse mettere un cazzo di adesivo con scritto fa venire il cancro, lo metterebbe o no? Tutte parolacce, no? Tutte queste sì, parolacce. Dica. Per carità, Ma chi te conosce? Ma chi cazzo è lei? Chi la conosce a lei? Cosa vuole da me? Allora, visto che non ci conosciamo, sì, non mi telefoni più. È arrivato il principe di sto cazzo, dai, il marchese del grillo, butta giù. Danno fastidio le parolacce. È lì che vende i cazzi di toro al pepe e poi gli danno fastidio le parolacce. Dai, dammi un altro. Lo pomane. Questi qua, principale mangiano la merda e poi ci dicono che fa male. Sì, sì, ma anche il nostro. La carne che ci abbiamo noi, le vacche con le mammelle grosse che quando le mungiasci quel latte per la spruzz che ti vengono certe mozzarella da 10. Sì, vabbè, ma adesso non ti arrapare, Lupomane, non ti arrapare. Adesso capisco che tu vuoi incularti una burrata in questo momento, ma... quella burrata che come se c'ha la testa in bocca di una mamma che ha appena fatto rit con la spruzz che ti entra dentro agli occhi che ti mette pure il collerio. E questo non capiscono un cazzo. Sì, questo l'ho mangiato merda per tanti anni. Dei ricchioni di merda ve lo dovete prendere nel buco del culo. Che cosa? Perché, carissima organizzazione di un cazzo catapazzo, e secondo te io, il lupomane, sì, che tu mi metti l'etichetta sopra il salamone di 10 centimetri che te lo do a mettere nel culo, che fa venire il cancro, io non lo mangio. E certo che lo mangio. Quindi scusa, concludendo, facendo un'informazione corretta, non è il formaggio o il salume di per sé stesso che fa male. E se tu t'abbuffi, ti mangi... E certo, se ti metti nella bocca un salame di 1,5 kg, è normale che ti fa male, scusa. Come se ti metti il cazzo di uno di colore di 30 centimetri, fa male. Se giusto, te lo metti di 10, fa male. No. Esatto, quindi invece di mettere l'etichetta del cazzo sui prodotti, bisognerebbe fare un'educazione alimentare corretta, la giusto? La qualità, un premio sulla qualità dei prodotti. Sì, chiudiamo con lo slogan. Sempre, tiro un filo, tiro un sbaglio, tiro un cazzo. Ciao, Lupomane, grazie. Un bacione, ciao. Madonna, quanto lo amo, io lo amo. Poi sei un bastardo di merda perché te lo tieni per te, Lupomane. Sì. Lupomane di Bruciani non si tocca, il suo opinionista. Niente, ragazzi, non so se la vecchiaia ci sta facendo diventare più buoni, però sta di fatto che, non lo so, a me piace, lui proprio mi piace. Rovazzi mi piace, gli voglio bene. Cioè, non puoi odiarlo, è un altro inodiabile, come Jerry Odiamo Scotti. Qualcuno della sua famiglia, cioè avrà un cugino da odiare. Dobbiamo odiare i pedalò sono la rovina del mondo, signore. È vero. Sono la merda del mondo, i pedalò. In una borsa, lo sono fatta grossa, spremato di corsa. Tu copi e colla, la moda si controlla, sparisco tra la folla. Ballare come bolle, cantare di felicità, fare gli cassi di Zalone, e invece sono ancora qua. Cerco un posto casco e prendo qualche attività, e i limiti della legalità. Faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. Quest'estate sono fuori controllo, e nel testo tanto non ne ho bisogno, perché con questa voce I che con questa voce dal mio karma, non so che mi salta. Ho voglia di staccare dall'asse generale, tu farmi dentro il mare. Devi preoccupare mamma, che se sto ricolando devo svegliere. Prima dopo devi stare calma, tanto sono su una banda. Non ti aspettavi questa nuova canzone, e ti darò un finale contro ogni previsione. Ma non sono l'eroe delle tue solite storie, e sono contrario a tutti gli spoiler. Faccio quello che voglio, faccio quello che mi va, quest'estate sono fuori controllo, e nel testo tanto non ne ho bisogno, perché con questa voce qua, dire che con lo zampino del nostro Paolino la canzone ha preso un pieghino diversino, diciamo che bravo. È un po' più densereccia questa versione di Jack Mazzoni e Paolo Noi. Comunque l'ho trovato. Cosa? Ho trovato il cugino di Rovazzi, Saverio Rovazzi, 1989, anno di nascita. Allora, Saverio, sei una merda. Ma no, poverino. Saverio Rovazzi, sei la merda delle merde, Saverio. Ma no, mi stai ascoltando? Perché Rovazzi non lo voglio odiare, però qualcuno della sua famiglia, un congiunto. Marco, magari è una persona meravigliosa che salva le vite alle foche, che ne sa. Saverio, sei un coglione. Ecco, mandagli un vocale a Rovazzi. Chiedigli una cosa. Senti, ma qual è il tuo colore preferito? Digli che suo cugino Saverio è una merda. E poi ricordiamo, adesso lui sarà sicuramente in qualche intervista tipo con quella merda di suo cugino. Zitti, aspetta che gli mando. Aspetta. Con fare gentile anche. Sì. Ciao Rovazzi, come stai? Sono Marco. Volevo sapere, è una roba proprio che non so, ma mi ha fatto riflettere tutta la notte. Qual è il tuo colore preferito? Dire giallo, ragazzi. Gli hai detto che suo cugino è una merda. Saverio, se mi stai sentendo, sei schifo, Saverio, ti odio. Facciamo una crociata contro il cugino di Rovazzi, che è una merda. Saverio, devi morire. Aspetta, ma magari non è neanche suo cugino, che ne sai. No, ho trovato su Wikipedia. Cioè aspetta, che gli mando un messaggio io. Ah, che cazzo. Rovazzi, guarda che ti ho fatto anch'io un remix, eh. Mi raccomando, ascoltalo. Qualcuno può farci dare da Rovazzi? Ha già risposto. Madonna. Adesso finisco una cosa e ascolto Todos. Cos'è, un remix? Sì, un remix. Visto? Scusate, ma uno può essere così carino da farmi avere il numero del cugino Saverio di Rovazzi. Ma la vuoi finire? Voglio insultarti, voglio mandare i messaggi al cugino di Rovazzi dicendo che è una merda. Saverio, sei l'ultimo verme della terra. Sai che spero che sia un super palestrato con quattro braccia, campione di tre karate. Sarà una merda. Braggio! Cosa? Squalo, chicca, trovami il numero di Saverio Rovazzi, per favore. Ma non esiste. Sai che comunque la bellezza di Squalo è che Squalo è veramente diciamo la versione zero dell'essere umano. Secondo me Dio ha fatto un sacco di tentativi prima, certo, poi di dire vabbè, questo ok, così lo voglio l'uomo, poi ne ha fatte di versioni diverse, però lui è proprio il grado zero dell'uomo. La versione basic, lui è ancora il DOS nel cervello. Ma non può essere Saverio? C'ha uno schermo nero con una lineettina che lampeggia. Lui no? praticamente è l'ultimo Control Z. Sai quando ritorni all'inizio del progetto e fai Z e torni all'inizio del progetto? Comunque, lui ha fatto una domanda, ha chiesto: non può essere Cioccio? Saverio ha detto: non può essere Cioccio? Cioccio, non so cosa. Cioccio! Non può essere Cioccio? Ha detto. Lui parla come Ringo adesso. Squalo, vieni qua un secondo. Parla col papà. Ciao papà, come stai? Tutto a posto? Bene, tutto a posto. Ti ho rubato 10 euro ieri sera nel portafoglio? Sì, dai, parla tranquillo con me. Sfogati un po'. Cos'è che ti attanaglia? Qual è il tuo problema? Dai, che c'è l'esodo. Fra poco si va in vacanza. tutti. Dove vai in vacanza, bimbo mio? Dove vai? Dove vai? Dove ci sono i soldi? Non lo so. Soldi. Sai che per, ci vuole allenamento per parlare così, ragazzi? Che non è facile. Io ho capito. Ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-boldi. Ragazzi, ci vuole stile a parlare in quel modo, ragazzi. Ciu-ciu-boldi è il figlio adottivo del Ghana di Massimo Boldi, ragazzi. No, ha detto che lo vuole ciucciare a Boldi. Ah, ciuccio-boldi. Se mi fa fare un film, Massimo Boldi, io ciucciare. Se mi fan fare. Ho capito, ha la lingua scivolo. Scivola. Sì, c'è la lingua di squalo, sarà l'acqua fan quest'anno. Le vocali vanno. Allora, faccio vieni un appello. Qua. Zitto, zitto, parla col papà, vieni qua, seduto, vieni qua. Ciuccio Boldi. Seduto, cuccia. Allora, dove vai in vacanza, piccolino? Dove vai? Voglio andare a Rimini in vacanza. Beh, Rimini faccio. Perché a Rimini vuoi andare in vacanza? Sei nell'87. Perché c'è una ragazza che ho visto l'anno scorso, voglio ribeccarla. Magari mi sta ancora aspettando lì a mangiare il gelato. Ah, sì, da un anno. Fatto l'inverno lì con le ciabatte e la gonna corta a congelare l'asciugamano bagnato. L'ho vista, mi è rimasto in... ho detto magari c'è ancora. Sai parliamo. Cos'è la sicurezza? Che anche tu sei rimasto impresso a lei. Mi sta ancora parlando Natale lì che mangiava il brodo. Non sapete cosa ho visto a Rimini, ragazzi. Non sapete cosa ho visto a Rimini. Comunque, se vuole venire il 27 luglio, quando c'è l'ultima puntata dello zoo, faccio sto giallo dei. Vedete tutti vestiti di giallo. Oddio, cosa fai? Giallo dei, veramente. Giallo dei. Cosa aspetto là sotto, ragazzi? Ma giallo, giallo così. Dei, è bellissimo il giallo. Aspetta, dei. Scusa, ma ce lo dici giallo. Così? Ma era una proposta, volevo condividere la con il voi. Giallo, scusate. Fai la notte gialla. Il giallo dei, mi sono immaginato tutto il raduno dei pulmini. Giallo dei, tutti vestiti di giallo, con le zanzare che gli succhiano il cervello. Fantastico. Ragazzi, scusate, mi spiace interrompere questo momento meraviglioso, ma c'è Italia amore mio. Sta per cominciare, dobbiamo collegarci. Prego, Pippo, scusami, andiamo. Vai. Trasmettiamo TG2 Ring, incontro in diretta con un personaggio dell'attualità intervistato dai giornalisti delle TG2. Ma no, non è quello. Lo Zoo di 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta Italia amore. Italia, amore mio. Il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole 3 domande. Pensa. Italia, amore mio. Dirige in studio Alfredo Larocca. Pronto? Pronto, buongiorno signora. Ben collegata su Vai 1. Sta guardando la televisione in questo momento. È uscito il suo numero e lei è invitata a giocare con noi al quiz in diretta. In questo momento in palio oggi 16 milioni di euro per sole 3 domande. È pronta signora? Io non posso proprio. Suo marito in casa, così magari possiamo fare. Allora mi passi mio marito. Salvatore, un applauso a Salvatore. Bravo, finalmente Salvatore. Abbiamo il signor Salvatore in diretta. Speriamo che riesce lui, ma non credo. Proviamo, sono domande molto facili, signora. Signora, allora, ve lo passo. Lei è la signora? È la moglie. Come si chiama? Il suo nome, signora, basta il nome, non chiediamo altro. Come si chiama lei di nome, signora? Io mi chiamo Felicia. Un applauso alla signora Felicia che è con noi questa sera. Benvenuta, benissimo, allora prego, prego signora, che dobbiamo andare, abbiamo il tempo veloce, che poi c'è il telegiornale. Benissimo. Pronto? Signor Salvatore? Sì. Buongiorno, abbiamo parlato gentilmente con sua moglie. In questo momento siamo in diretta su Vai 1 e abbiamo chiamato appunto il nostro comitato, ha trovato il suo numero di telefono e lei è pronto a vincere 16 milioni di euro in diretta in questo momento. Se lei accende la televisione può vederci in diretta. Attenzione, lei come si chiama? Salvatore. Cappella. Salvatore, un applauso al signor Salvatore. Sente il pubblico qua con noi oggi in studio. Abbiamo appena avuto anche i Jefferson e Michael Jackson. Benissimo. Allora, signor Salvatore, le domande sono 3. È pronto a rispondere? Sono facilissime. In palio 16 milioni di euro. Dai con la base. Attenzione. La base è bellissima. Se la mucca fa mu, il merlo fa? Non ho capito. Se la mucca fa mu, il merlo fa? Il merlo fa chip chip. Benissimo, risposta esatta, grande signor Salvatore, preparatissimo. Se la mucca fa mu, il merlo fa chip chip. Ma un no, applauso ancora. Ci fa chip chip. Benissimo, allora attenzione, arriva la terza domanda fatidica. Purtroppo dei concorrenti in questa settimana non ce l'hanno fatta a vincere. Però attenzione, la terza domanda è molto difficile. Lei di che zona è? D'Italia, dove abita? Dove è? Via. Via? A Fandina. Benissimo, questo può servire in futuro. Ecco, certo. Che la velina mi sta portando la busta, attenzione. Signora, Eccola qua. Signorina, tutto bene? Sì. È chiusa la busta? Chiusa. Perfetto, abbiamo il signor Salvatore. Lo saluti pure. Buongiorno, Salvatore. Benissimo. Ciao, ciao. Benissimo. Allora, ciao, attenzione, ciao. Abbiamo il signor Salvatore con la terza domanda. Si porta a casa 16 milioni di... Porta a casa? 16 milioni di euro. A posto. Sono abbastanza, sono soldi, posto, perché vabbè. Pensi che sono 6 anni che facciamo questo gioco e non ha ancora vinto nessuno. Pensi. Ma oggi potrebbe essere il suo giorno fortunato. Fortunato, signor Salvatore, signor Salvatore Cappella, giusto? Sì. Allora la domanda è: di che colore è il formaggio? Il formaggio è bianco. È sicuro? Che ha scorreggiato. Attenzione, a 30 secondi può anche tornare indietro e cambiare anche le sorti del pianeta. Perché il formaggio, attenzione, alle volte è bianco, ma alle volte è anche... Cosa? Cosa? No, è anche più scuro. Si concetti, signor Salvatore, perché ci sono dei formaggi che alle volte sono colore diverso. Come? Intanto ricordo che abbiamo al telefono il signor Salvatore Cappella. Sì. Benissimo. Che è del paese. Pensa che merda. Benissimo. Che via. Questi sono tutti dati importanti per il futuro. Per Wender soprattutto. Allora, che colore è il parmigiano reggiano stagionatura, ecco, 12 mesi? Beh, questo è facile. Attenzione, attenzione, ci pensi, non dica subito la risposta perché potrebbe perdere. Attenzione. Sì, o vince. Non lo so. Non lo faccio. Un attimo solo, stia lì un secondo. Pubblicità, 10 secondi. Torniamo subito su Vai 1. Vai con la pubblicità. Anche tu vuoi lo scopino nuovo della nuova generazione dei cessi? Ci piace. Sì, che cazzona. Ordina scopino di Mino. Che colore è? Chieda a sua moglie, che magari è più informata. 20 secondi da questo momento, 16 milioni di euro. Signor Cappella, si porta a casa bianco, bianco. Bianco, bianco, ma con delle sfumature. Sfumature, non so. Sfumature, non lo so. No, risposta no, esatta. Il signor Cappella, incredibile. Oh, arriva anche la velina a dirle che... Bravo, complimenti. Signor Salvatore, incredibile, 16 milioni di euro. No. Un applauso ancora, è incredibile. Bravo. Cosa potrà fare questo signore con 16 milioni di euro? Chi se ne frega che l'Italia non ha partecipato ai mondiali di calcio. Il signor Cappella ha vinto 16 milioni di euro. È contento? Sì, ti saluto. Guardi, signor Salvatore, sì. La sto salutando col cazzo in mano in televisione. Un applauso. Amore mio, tu vai sempre alle... Cosa? Su Vai 1. Oh, tu sei pazzo. Non sei... era convintissimo, Cappella. Tu sei squilibrato mentale, però. Tu sei adesso... un pazzo. Lo so, tu hai fatto tutta sta roba per avere i suoi dati. Ragazzi, mi ha risposto Rovazzi, attenzione. Aspetta. Attenzione, lo sentiamo in diretta, occhio. Il mio colore preferito è il verde. No! Sacrilegio! Sacrilegio, no, certo. Verde! No, verde. No, neanche no. Ti soffermi sul fatto che gli abbia anche risposto. No, il problema è il colore. Per cazzarola, te. Sì. Cazzarola, dall'84. Perché ragazzi, qual è il colore della vita, caro squalo? Giallo! Ragazzi, è arrivato il momento di fermarsi per qualche minuto. Mazzoli, approfittane per andare a portare il tuo cane a fare pipì, pulire le 12 lettiere che hai in studio e ad andare al canile gattile ad adottare altre creature. A dopo, caro il nostro San Francesco. Una vita piena di merda, oh mamma mia. Extra Live ti fa incontrare i tuoi artisti preferiti e ti regala un'esperienza straordinaria con David Guetta. Ascolta Radio 105, vai su 105.net e se sarai il più fortunato volerai a Ibiza per incontrare David Guetta all'Ushuaia. 105 Extra Live. David Guetta. Con Radio 105 vivi esperienze uniche e irripetibili, pensate apposta per te. Extra Live. Vivi la musica come non hai fatto mai. Di Zo ce n'è uno e la gente lo sa. La gente lo sa, sì, la gente lo sa. Tutti provano a copiarlo ma nessuno ce la fa. Nessuno ce la fa, sì, nessuno ce la fa. anche i cinesi ci provano, ma prova, prova, ma non va, prova, prova, ma non va. Io non voglio mica farvi cambiare opinione, ma lo zoo ha sempre ragione. Lo zoo di 105 ha sempre ragione. Lo zoo di 105 ha sempre ragione. Lo zoo di 105 ha sempre ragione. Come? La cassa dritta fa sempre ragione. What do you know? What do you know? And all I want is to find out what you're going through. What do I know? Maybe the silence is dangerous. Sbaglia mai sto ragazzo, veramente incredibile. Brutto come la fame, ma bravo, veramente. Come fai bravo, a saperlo che c'ho la testa di topo? Come fai a sapere? Ma no, com'è? Ma no, vabbè, ma la toglie. Se vai sul suo Instagram, non l'ha mai vedi, tolta perché non è finta. Sì. Lui è proprio fatto così. Io no, è proprio. Allora, è brutto buterato. C'ha una fica pazzesca al suo fianco. Una casa incredibile. Gira solo in McLaren. Allora però ti una persona, spiego, la una fidanzata persona... ce l'ha la McLaren nella casa. Lui la scopa perché la casa e la McLaren non hanno l'uccello. Esatto. Fondamentalmente. Però a lei se esce con la casa o con la macchina è uguale, capito? Cioè se la casa avesse il cazzo tu dici lei preferirebbe scoparsi la casa. Diciamo che le loro cene sono così. Allora amore, cosa hai pensato? Tutto quello sentite, che vuoi. Io Pippo ti posso chiedere una cosa? Ce l'hai una base speciale? Non so, mi serve una base speciale. Devo dirvi una cosa importante. Speciale, ma le vorremmo bene come se fosse normale, Esatto, una base tipo squalo, no? Una base speciale. La nostra piccola base speciale. Quindi qualcosa di attesa. Okay, volevo, giustamente, perché gli ascoltatori in questi giorni erano un po' in ansia, un po' in pena per tutta una serie di cose. Hanno capito che c'era qualcosa che non andava nel programma. programma, ma che riguardava alcuni di noi, sì, in modo particolare il sottoscritto. Volevo chiedervi scusa perché non è facile per me dire questa cosa in onda, però per uno che fa il mio lavoro, che fa questo lavoro, far ridere, far divertire le persone, quando tu non stai bene, cioè quando tu non solo fisicamente, proprio hai dei problemi grossi in famiglia, eccetera, è difficile affrontare il microfono e recitare una parte che poi, tra l'altro, a noi non piace essere farlocchi, finti, a noi piace essere veri. Quindi se io sto male è difficile essere il simpaticone, il compagnone, quello che ti fa i discorsi. Già è difficile quando stai bene, che sei una persona fallosissima. Scherzo, no, dai, vai, vai. Mi dispiace, volevo chiedere scusa anche ai miei colleghi, perché io ultimamente ero un po' incancrenito, diciamo, no? No, questa no, no, così no, così diventa triste. Invece è una cosa, è un discorso positivo che voglio fare, non è una cosa triste. Ho passato un periodo brutto della mia vita perché ho fatto delle scelte difficili, sono andato a vivere dall'altra parte del mondo, ho ricominciato una vita diversa, non ho i miei amici, non ho i miei parenti qua, eccetera, e quindi mi sono dedicato ad altri progetti che mi hanno succhiato l'anima. Pensavo fosse più facile, invece devo ammettere che ho preso delle decisioni importanti e non pensavo che mi portassero via così tanta energia. Quindi un po' è andata a puttane la mia vita in generale, no? E l'ho riversata un po' nel programma, l'ho riversata sui miei colleghi, sono stato magari a volte un po' troppo poco sensibile con alcuni. Ti chiedo scusa, Paolo. E questa cosa ne ha risentito anche il programma poi per qualche tempo. Sono tornato, ho dovuto fare un percorso importante con me stesso, sono qua in onda su una radio nazionale, sto parlando a milioni di persone, e ho sbagliato, vi dico, ho fatto delle cazzate nella mia vita, ho capito, mi sono ritrovato, farò un percorso ancora più lungo per, diciamo, rimettermi al 100%. Non ho nessuna intenzione di mollare il mio lavoro, non ho nessuna intenzione di cambiare niente, lo Zova avanti, saremo sicuramente più forti. E bella, visto la base, che l'anno prossimo festeggiamo 20 anni di programma, dedicheremo molto tempo per organizzare questa grande festa per festeggiare 20 anni del programma che ha cambiato la radiofonia italiana. Quindi vi chiedo scusa, è stato ho sbagliato, ho peccato di presunzione. Capitano mio. Allora Marco, io ti autorizzo a deiettarmi dal caccia, voglio morire come Goose. Fammi morire spezzandomi il collo, eiettandomi dal sedile posteriore senza motivo. Però è il bello di questo programma, che il programma purtroppo subisce sia le cose belle che brutte di ognuno di noi, no? Quando noi abbiamo dei problemi il programma ne risente, quando siamo allegri il programma ne risente in meglio. È il suo bello, è la bellezza dello Zoo. Sì, senti, ha finito? Sì, ha quasi finito. Sì, ha fatto la roba lì del percorso, che adesso è tornato. Che stronzi di merda. La buona vecchia tattica del percorso. Adesso il 15 agosto ci chiamerà tutti bestemmiando, venite in radio per fare la riunione, perché dobbiamo fare le scenette nuove. Comunque rimane il fatto, Marco, che se mi vuoi eiettare, spezzarmi il collo senza motivo a metà del film per far piangere il pubblico, io ci sono. E poi dopo questa scusa, e poi io mi scopo tua moglie. Perché è così che funziona, hai capito? Cioè Gus è morto senza motivo. Scusa, lei come si chiama nel film, la bionda, la moglie di Goose? Non lo so, adesso si chiama merda. No, Grey, forse, infatti erano Grey Goose, se non sbaglio, no? No, cretino, no. Lei, Meg Ryan, madonna, che è diventata una cessa di merda. È stata fica per in tanti ogni anni. Caso, se mi vuoi eiettare a metà del volo, senza motivo, fallo, spezzami il collo. Senti, ragazzi, ma perché io non riesco mai a fare un discorso con la testa e la coda? Ma che è una roba! Perché è un discorso grappa, la testa e la coda si buttano. Comunque, Marco, posso dirti una cosa? Ho apprezzato tantissimo il discorso, perché ho capito che l'hai fatto con la... Tante volte magari tutti noi abbiamo fatto discorsi di circostanza, questa volta l'hai fatto veramente col cuore, ti ringrazio, ho apprezzato moltissimo, grazie Marco. No, è vero, poi è facile prendersela magari con le persone più sensibili e non so che cazzo mi ha preso. Mi vai a sbloccare Marco dai social? E adesso andiamo tutti insieme a firmare il rinnovo. Adesso guarda, facciamo così, vi invito tutti qua quest'estate, venite qua a trovarmi a Miami, ci facciamo una riga, vi affitto un'Harley. Cosa facciamo? Ci facciamo tutti una riga, vi affitto l'Harley e ci lanciamo lungo la baia. Allora sono disposto a rinunciare a tutto, questa è una proposta che non si può rifiutare. Era un destro e un tuffo con l'Harley. Destro un tuffo con un'Harley affittata, ragazzi. Io voglio provare. Come fai a dire di no? Una burger di shake and shake. Cosa c'è? Era buono, mi è rimasto impresso. cazzo. Aspetta, non ho capito un cazzo. Quando sono andato a Miami mi ha portato a mangiare questo hamburger di shake e shake, che era veramente buono. Non è secco, cioè due asini erano. Shake. Che bestia bastarda che sei. Shake Shack si chiama. Madonna mia. Vabbè, comunque basta. No, è finito il programma. Allora gustiamoci questo minuto, invece di mandare la scenetta, gustiamoci l'ultimo minuto, scusa. Ma è 50. Anche giusto, Marco, perché la gente almeno ricorderà il contenuto importante e pregno del tuo discorso come ultima cosa del programma. Sai che sei invece che le solite quattro risate superficiali su una cosa che abbiamo sentito già tante volte. Vabbè, ma ragazzi, era una cosa importante che sentivo di infatti, dire, giusto? No, ma io proprio sto dicendo esattamente la stessa cosa. Cioè, è importante chiudere con un discorso sensato invece che con la solita risata superficiale. Bravo, ragazzo, mi sei piaciuto oggi, Marco. E noi ti sosterremo e faremo la stagione più bella di sempre. Ma dopo il 3 di settembre, però. Prima non ci cagare il cazzo. Che abbiamo bisogno di ferie. Torniamo a settembre. Ciao a tutti. Mancano 10 giorni. Quanto manca? 7 puntate. Ricordate, 27 luglio, giallo. Venerdì. Io ho capito, signori. Sì. Ho capito che è meglio mandare la sigla. Giallo Day, tutti vestiti di giallo sotto la radio e vi do 5 euro a testa. Venite. Ma perché devi pagarli, scusa? Così, vinco. Così, vinco. Vabbè ragazzi, ci risentiamo domani dalle 2 alle 4. Grazie a Pippo Palmieri, ciao, grazie a Johnny, ciao. La Chicca, grazie a Marco Dona. Salutiamo ancora Spine, Tatino ancora a casa, ciao, con piedino Spine, rotto. Ti vogliamo bene. Grazie a Wender, Fabio Lisei, Paolo Nois e Mazzoli. Quell'altro di colore giallo. Ciao Squalo, grazie a Uzi anche, ciao ragazzi, buona giornata, ciao ciao ciao ciao ciao. Spider-Man figlio di puttana! Ma no!